Shabba 64 Production, Amsterdam, Connection, yes, fake friends. Rispetto a come butta non mi posso lamentare. Easy, yeah. Rispetto come butta non mi posso lamentare. Stare a casa è settimana, è weekend, viaggiare. Ti chiamano ogni ora al cellulare. È un lavoro duro ma qualcuno lo dovrà pur fare. Rispetto come butta non mi posso lamentare. Stare a casa è settimana, è weekend, viaggiare. Ti chiamano ogni ora al cellulare. È un lavoro duro ma qualcuno lo dovrà pur fare. Di sti periodi in cui lavorare non ti fa arrivare a fine mese nello stivale. Ho un motivo in più per non pigliarmi male. Guadagna a cotimo, a volte bottino ottimo. Il grosso delle volte rischi di andarci sotto. Ma quello che il tuo impianto spinge da molto, vince l'ignorante e l'incolto. La bella signorità che cerca belle sonorità mi ha reso nel mio ramo una celebrità. E io che ballavo al concerto di Chuck e Flavor, oggi ho mio crew e sono onorevole. Ho anche il presidente dell'ente, gente guasta. Noi guasta feste di chi vuole, la mia gente stanca. Aspetto come butta, non mi posso lamentare. Stare a casa in settimana e il weekend viaggiare. Ti chiamano ogni ora al cellulare. È un lavoro duro ma qualcuno lo dovrà pur fare. Aspetto come butta non mi posso lamentare. Stare a casa in settimana e il weekend viaggiare. Ti chiamano ogni ora al cellulare. È un lavoro duro ma qualcuno lo dovrà pur fare. Forza dei vinili, grossa ginnastica, tarda serata. Se c'è gente serrata fa anche offensiva sferrata. Se sei in un club si inizia tardi, ma anche ai centri sociali dalle mie parti. Magari dopo anche c'è l'after party. Nel mio genere canti quasi come quando parli ed impari con le rime a confrontarti con gli altri. Mi sa un po' di concerto, un po' di teatro, nel microfono col filo o in quello radio. E non mi lamento se non sempre sono assicurato e lo stipendio a fine mese non è assicurato. Ma le musiche che spingo c'è chi le segue, e se non ci si vede tutte le altre sere che non sono in zona tua è perché sto mestiere mi trasporta in altri lidi, ma ci si rivede, ok? Aspetto come butta non mi posso lamentare. Stare a casa in settimana è il weekend viaggiare. Ti chiamano ogni ora al cellulare. È un lavoro duro ma qualcuno lo dovrà pur fare. Rispetto come butta non mi posso lamentare. Stare a casa in settimana è il weekend viaggiare. Ti chiamano ogni ora al cellulare. È un lavoro duro ma qualcuno lo dovrà pur fare. Yes, realize, if these whack niggas realize, if these whack niggas realize.